Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e bentornati a Mr. Kilowatt. Abbiamo già spiegato come una quota significativa di efficienza energetica dipenda dalla capacità di regolare gli apporti naturali di luce e di calore all'interno degli edifici. Il problema, per la verità, è secondario d'inverno, mentre è cruciale d'estate, dove peraltro si è spostato il picco di consumo elettrico a causa del condizionamento, perché in estate in poche ore un edificio che faccia entrare al suo interno troppa luce solare può surriscaldarsi parecchio, insomma, e poi diventa un problema raffreddarlo. È qui che entrano in gioco le cosiddette protezioni solari. Ce ne parla Lorenzo Pagliano, che è docente di fisica degli edifici e direttore di EERG, cioè il gruppo di ricerca del Politecnico di Milano sul risparmio energetico negli usi finali, che è con noi per la verità per la seconda volta. Buonasera Pagliano. Buonasera. Allora, le chiedo subito che cosa sono le protezioni solari. Beh, sono qualsiasi sistema che ci permetta, essendo posto preferenzialmente all'esterno delle superfici vetrate, di regolare la quantità di luce e di energia termica proveniente dal sole e dal cielo che entra attraverso queste superfici nell'interno dell'edificio, e vogliamo regolare entrambe le cose, la luce per avere ovviamente luce all'interno dell'edificio, ma anche il calore che entra e che appunto in estate ovviamente vorremmo limitare al minimo indispensabile, compatibilmente con una buona illuminazione dell'interno. Certo, perché se poi chiudiamo tutto dobbiamo accendere la luce elettrica e quindi si spreca energia anche in quel modo. Ecco, ma più o meno come sono fatte? Ma diciamo, il prototipo ce l'abbiamo probabilmente tutti ben presente, è quello della classica persiana, insomma. Possono essere queste che sono poste verticalmente, che sono particolarmente importanti davanti alle finestre a est e a ovest, quindi quelle in cui il sole incide al mattino e alla sera con bassa inclinazione sull'orizzonte, quindi penetrando molto all'interno dell'edificio. Lì è importante avere questi sistemi, per esempio di lamelle, sono delle lamelle in cui la parte lunga di queste lamelle è orizzontale e che possono essere orientate ruotandole attorno al loro asse in modo da far penetrare idealmente solo radiazione diffusa. Sostanzialmente dall'interno dovremmo vedere solo il cielo, ma non direttamente il sole. Okay. E quindi non far penetrare raggi solari diretti che creano delle macchie di luce troppo forte, diciamo, in alcune zone e portano dentro molta energia termica. Peraltro, ecco, questo invece si può fare benissimo regolandole adeguatamente d'inverno quando la cosa è desiderabile. Esatto. Ecco, poi queste lamelle nelle versioni moderne sono lamelle di metallo o di plastica che si possono impacchettare, quindi completamente liberare la finestra d'inverno quando vogliamo molta luce e molta radiazione. Abbiamo capito che sono degli oggetti simili alle ben note persiane, ma qui ci sono poi, come dire, invece delle tipologie un po' più sofisticate, soprattutto per quanto riguarda il controllo, la possibilità di controllare l'afflusso di luce e di calore. Sì, certo, ovviamente queste lamelle possiamo manovrarle sia come inclinazione, sia impacchettarle in alto, in basso o a lato, a seconda dei modelli, in modo manuale, con una corda o con una manovella, oppure in modo automatizzato con un piccolo motore efficiente e con un controllo elettronico che potrebbe per esempio aprirle o chiuderle e inclinarle a seconda del livello di radiazione che incide sulla finestra e che è misurato da un piccolo sensore, o del livello di illuminamento all'interno ancora misurato da un sensore di illuminamento opportunamente posizionato. Quanto si risparmia più o meno utilizzando questi accorgimenti, che mi sembrano essere anche abbastanza economici? Insomma, uno può fare un intervento senza bisogno di spaccare nulla, sostituisce, diciamo, delle persiane o le aggiunge quando non ci sono. Sì, ovviamente occorre scegliere degli oggetti che, essendo all'esterno e mobili, devono essere di buona fattura in modo da mantenersi in buone condizioni nel tempo. Però oramai ci sono moltissimi modelli sul mercato estremamente affidabili. Possono in alcuni casi ridurre diciamo, la domanda di condizionamento, o se vogliamo migliorare il comfort di quantità significative, insomma possono drasticamente cambiare le condizioni all'interno delle stanze che abbiamo protetto rispetto a quelle non protette. Ecco, qui contano molto i fattori specifici del luogo in cui sorge l'edificio, come è orientato. Forse lei ha anche la possibilità di suggerire un link, se non sbaglio, al quale si possono ricavare un po' di informazioni di questo tipo. Sì, diciamo, forse il modo più diretto è andare sul sito del mio gruppo, che quindi è eerg.it, e di lì seguire i link ai progetti come Keep Cool, in cui abbiamo fatto assieme ad altri partner europei analisi di quanto si può risparmiare con queste protezioni solari, per esempio, e altri sistemi a seconda dell'orientazione, a seconda della latitudine del clima. Quindi chi fosse interessato può andare più in dettaglio. Grazie a Lorenzo Pagliano. Qualche suggerimento per finire. Se non avete in programma di cambiare le persiane, la strategia estiva per contenere il riscaldamento è la seguente. Vetri, quindi serramenti, e persiane oppure tapparelle chiuse durante il giorno e aperte di notte. Se avete tapparelle di quelle con lo snodo, usatelo, fa entrare un po' di luce in diretta e consente il ricambio d'aria alla tapparella che altrimenti si surriscalda. Se invece avete tapparelle che fanno solo il movimento verticale, mi spiace, ma c'è poco da fare. Consolatevi solo pensando che d'inverno migliorano l'isolamento. A domani parleremo di domotica per il risparmio energetico.